Fabrizio Intonti. Io vi descrivo la scena, ditemi un po' se vi ci trovate. Avete invitato della gente a cena, siete usciti un po' prima dal lavoro, siete corsi a comprare gli ingredienti giusti in posti di cui avete fiducia. Andate a casa, vi chiudete in cucina e cominciate a spignattare, a cucinare, a preparare delle ricette tradizionali ma con un ingrediente esotico, a usare degli ingredienti normali ma in una maniera alternativa. Fate antipasto, primo, secondo, dolce, abbinate i vini, arrivano gli ospiti, cominciano a mangiare, cominciano a gradire. A dire ah, ma qua ci sento un tocco di questo, qua ci hai messo quest'altra cosa, commentano, discutono, parlano e poi alla fine, dopo aver mangiato tutto, vi dicono: ma lo sai che dovresti aprire un ristorante? Ecco, questa è la tentazione di oggi: dovresti aprire un ristorante. Se ve l'hanno detto, se ci avete pensato, se l'avete fatto, se ci state pensando, 800 24 0024. Oggi parliamo di gente che passa dalla scrivania ai fornelli. 10 minuti dopo le 4 del pomeriggio, io sono Achille Corea e questa è la terza puntata di Giro di Vita, il programma che parla di gente che ha inventato un nuovo inizio, di gente che cambia vita. 800 24 0024, oppure per contattarci potete usare anche la nostra pagina Facebook, che è facebook.com/girodivita. Io ho al telefono una persona che è passata, diciamo così, dalla scrivania ai fornelli, che è Clemente. Benvenuto. Buongiorno Achille. Allora Clemente, tu hai avuto un percorso, diciamo, abbastanza classico fino a un certo punto: laurea, praticantato, esame da avvocato, poi sei diventato avvocato e cosa hai fatto? Tra gli scritti e gli orali dell'esame da avvocato, siccome passano numerosi mesi, sono andato in Inghilterra per imparare l'inglese, lì per riuscire a vivere, a sostenermi, ho lavorato in un ristorante come cuoco pasticcere. L'avevi già fatto? No, avevo lavorato in una pasticceria a Roma un mese, così per vedere se mi piaceva, proprio in questa prospettiva. Siccome l'esperienza mi piacque molto e vidi anche che riuscivo bene, tornato a Roma e superato l'orale dell'esame d'avvocato, ho deciso di lasciare, di abbandonare la professione e invece di dedicarmi all'attività di cuoco pasticcere, che però ho portato avanti per circa 2 anni e mezzo e poi ho deciso di smettere. Quindi in realtà io ho dato sì il giro di vita, ma poi ne ho ridato un secondo, in un certo senso tornando indietro sui miei passi, cioè rimettendomi a studiare, a fare un lavoro di carattere intellettuale. Senti, ma quando hai detto, perché insomma sappiamo insomma quali sono le percezioni magari dei vari mestieri, quando hai detto ecco sono diventato avvocato e adesso mi metto a fare il pasticcere, qual è stata la reazione? Ma dipende dalle persone. I miei genitori per fortuna non mi hanno avallato e hanno detto che se io ero contento così tanto meglio, tanto di guadagnato. Altre persone, specialmente i compagni di università che invece erano lanciatissimi nella professione, sono stati un po' più critici e mi dicevano sostanzialmente che stavo perdendo tempo. Ma tu conoscevi, diciamo, l'ambiente, insomma comunque avevi già fatto un po' di prova, diciamo avevi fatto il praticantato, sapevi bene che tipo di vita lasciavi? Sì, assolutamente. Perché per fortuna ho fatto un praticantato serio, non nessun lavoro di segreteria, ma una produzione insomma intellettuale, quindi redigere pareri, scrivere atti, e quindi sapevo bene quello che stavo lasciando, non è stata insomma una decisione di comodo perché avevo paura. Scusami, ma quando ti presentavi nelle cucine, nei ristoranti, dicevi intanto: io salve, io sono un avvocato? Di solito no, quando lasciavo il curriculum lo scrivevo, e infatti mi è capitato che un ristorante di Roma, tra l'altro molto buono, che sta in Prati, il cuoco, mi disse: ti ho chiamato, ti ho cercato perché secondo me chi viene da esperienze diverse può avere qualcosa di più interessante. Lui stesso del resto non era un cuoco di formazione, non aveva fatto la scuola alberghiera, ma aveva fatto come me insomma scuole classiche, università, e poi si era messo a lavorare in cucina. Quindi questo sì, è confortante, sì, diciamo, per chi vorrebbe a un certo punto, magari nemmeno giovanissimo, provare a cambiare, a seguire questa tentazione. Cioè ci sono tante persone che lo fanno. Sì, ma io ho conosciuto molti che un buon numero di persone che ho conosciuto nelle cucine venivano da esperienze molto diverse e di solito erano anche quelli che avevano le idee più interessanti, più stimolanti, che erano anche più, che lo facevano veramente per passione. Clemente, ti faccio sentire un piccolo pezzo di un film che poi citiamo e poi ti faccio un'altra domanda. Che cosa vedete qui? Cioccolatina stampo, il guscio è di nero al 70%. Un ripieno praninato di nocciole. Secondo me c'è anche un goccio di rum. Io vedo un uomo al bar, beve il caffè. Ha problemi al lavoro, guai a casa, rate, piccoli sogni infranti. Li vede, ne prende uno e lo mangia. In un istante il tempo sembra fermarsi. È un piccolo momento d'estasi. Signori, se siete venuti qui per fare cioccolatini, potete anche andarvene. Qui si fanno piccoli momenti di estasi. Clemente, ti ci ritrovi? Questo era Neri Marco Re in un film che si chiama Lezioni di cioccolato. E questo è il bello di essere pasticcere? Sì, è anche questo. È vero che si possono creare situazioni molto particolari. Comunque quando si mangia, questa è soprattutto la pasticceria francese, un dolcetto piccolo dove ci sono tanti profumi, tanti sapori, tante cose diverse, è vero che ci si nell'atto di assaporare si provano sensazioni particolari. Ti chiedo due consigli per quelli che ci ascoltano, con una cosa che chiamiamo la valigia e la zavorra. La valigia e la zavorra. Allora, Clemente, dici, in base alla tua esperienza, una cosa che bisogna portare e una cosa che bisogna abbandonare quando si fa un giro di vita come il tuo? Ma portare sempre professionalità, comunque quello che ho fatto io è cercare sempre di essere professionale, anche perché quando si inizia dopo, rispetto a chi, diciamo, ha iniziato il percorso finita scuola, quindi quando aveva 18-20 anni, chi inizia a 25, a 30, anche a 40, ha meno tempo a disposizione, può permettersi meno sbagli, quindi deve essere molto professionale. Ci vuole molta professionalità. E cosa bisogna buttare? I pregiudizi. Sì. Grazie Clemente, ti ringraziamo per questa tua tentazione. 800 24 00 24, se avete lasciato la scrivania o anche un'altra cosa per mettervi ai fornelli. E se lo facessi io? Allora, se sapete, avete cominciato a capire un po' come funziona il programma, sapete che a un certo punto io comincio a chiedermi, ma come si fa? Vediamo se è una storia singola e quindi cerco di sentire un esperto del settore per avere un suo parere, in questo caso un grande esperto perché abbiamo un oste cuoco come Filippo Lamantia, benvenuto. Buongiorno, grazie mille di avermi chiamato, grazie mille. Allora Filippo, sì. Tu sei un cuoco, diciamo, affermato La prima cosa che vorrei sapere da te è la reazione di una persona come te quando si presenta uno che dice io ero un avvocato, ero un commerciante, ero qualsiasi cosa, vorrei cucinare. Guarda, in questo preciso momento, da circa 4 mesi, ho praticamente un ragazzo, un uomo di 42 anni che faceva l'avvocato. Vedi, ecco, e allora mi ha scritto mesi fa un'email, te lo giuro, bellissima, dove mi disse che voleva cambiare vita perché aveva letto di me, che mi ero praticamente che riproposto, che reinventato tutta una serie di cose, se poteva venire un periodo in cucina appunto da me per imparare a cucinare e a stare in brigata. Ovviamente io quando lessi questa cosa dissi ma perché no, proviamo, capito? Ci sono riuscito io, perché non ci è riuscito anche lui? Adesso lui è 3 mesi che è qui, lo assumo tra una settimana, ha lasciato la sua professione straordinaria che è l'avvocato per iniziare una nuova vita. Senti Filippo, secondo te quanto tempo si deve dare uno per provarci? In quanti mesi uno capisce se, diciamo, se fa per sé diciamo, questa professione o meno? Guarda, io ormai c'ho un occhio clinico e anche critico, nel senso che quando vedo delle persone in cucina, perché poi qua i clienti pure mi chiedono che di venire appunto in cucina per provare a cucinare, a stare con noi, io è come che se avessi un'intuizione immediata, dall'approccio che si ha con gli attrezzi, con i coltelli e anche praticamente il tatto che si usa con gli ingredienti, io vedo praticamente subito che se uno è portato o meno, quindi è un rapporto immediato che si ha col cibo, tutto qui, che si è ricevuta un'educazione straordinaria a casa, in cucina praticamente c'è un approccio bellissimo appunto in cucina. E senti, e qual è la cosa invece che secondo te poi stupisce di più e frena di più chi pensa di saper cucinare bene e poi si trova a farlo in una cucina professionale? Dunque, diciamo che è successo anche a me, perché ovviamente io praticamente da giovincello, come i miei amici mi raccontano, ero un po' sempre quello che andava in giro a fare la spesa, a cucinare in vacanza, in barca, sulla neve, ero praticamente che lo strimpellatore del cibo. Il fatto che quando praticamente decidi di assumere un ruolo che è quello del cuoco, quindi ricevere gente che paga, quindi tu cucini per gente che paga e si aspetta praticamente delle cose, che il rapporto cambia, è ovvio. Okay. O devi avere un rispetto per loro straordinario e devi far sì che tutto questo praticamente funzioni, sia perfetto. Il rapporto con i clienti, quindi. Grazie, per me è importantissimo. Sì. Grazie Filippo, ti possono tutti seguire anche tramite il suo sito che è filippolamantia.com. Grazie per essere stato con noi. 20 minuti dopo le 16, 800 24 00 24, se volete raccontarci una storia simile. Intanto io vorrei sentire anche la storia di Alberto Formichi, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Tu hai, diciamo, un lavoro, anche tu un lavoro abbandonato, completamente diverso rispetto alla ristorazione. Sì, esattamente, da parastatale praticamente ho iniziato così la mia carriera, quindi. Cosa facevi? Lavoravo, ero impiegato del parastato. Ecco, ok. E come hai mai deciso di mollare? Ma la passione per la cucina ce l'avevo sempre avuta, e fino a che un giorno è capitata l'occasione tramite degli amici che avevano intenzione di aprire un ristorante, sapevano di questa mia passione, è nato tutto così un po' per caso, forse per gioco devo dire, all'inizio. Però tu hai lasciato. Però poi dopo un po' sì, ho lasciato, quando ho visto che la cosa non era più un gioco ma diventava una cosa importante e abbastanza grande, allora ho lasciato il mio lavoro per darmi un po' anima e corpo purtroppo a questo lavoro, perché purtroppo, se non lo fai così non lo fai. Ho capito. Ho sentito le ultime parole dello chef Lamantia, che è una persona che rispetto moltissimo e devo dire che mi ci rispecchiamo molto. Purtroppo ho sentito solo le ultime parole perché sto lavorando in questo momento, quindi non avevo la radio a portata di mano. Dimmi, io ti sento contento, però dimmi qual è la cosa più dura, passando da un lavoro all'altro. La cosa più dura, gli orari, la libertà, perché passando da parastatale capisci che oltre alle ferie hai diritto anche ad ammalarti, hai diritto a un giorno che non ti va ad alzarti, chiami e ti inventi o ferie o malattia. Okay. E non succede più. Cosa che non può succedere più perché hai troppe responsabilità. Tutto sulle tue spalle. Sono contento di sentirlo, perché dimostriamo che comunque il giro di vita può essere anche verso una vita più faticosa. Un'altra telefonata, 800 24 00 24. Pronto? Corrado? Sono io, ciao. Eccoci, Corrado, dici tutto. Io ho fatto la cosa inversa, nel senso che ho fatto l'alberghiera, ho fatto una gavetta all'estero per una decina d'anni, ho aperto un ristorante e dopo 10 anni l'ho chiuso per andare a lavorare come commerciale per una ditta di rubinetti. La domanda è perché? Perché come tutti i lavori bisogna farli fino a che uno ha passione, perché il ristorante visto da cliente sembra tutto rose e fiori, invece comunque è una professione che impegna tantissimo, 24 ore su 24, e bisogna, cioè, si è sempre alla ricerca di qualità, di novità, cioè bisogna avere tanti stimoli. E scusami, e tu cosa pensi allora quando senti tutte le persone che dicono: ah, io ho questo lavoro qua, però vorrei cucinare, vorrei fare ristoratore? Ma io gli dico: provate e poi capirete quanto. E mi saprete dire. Provate e mi saprete dire. Sì, perché ripeto, è visto da fuori è tutta un'altra cosa. Sì, perché si vede comunque l'attimo in cui il cliente è al tavolo, quindi le 2 ore, e poi sono dei sensi piacevoli, quindi sia tutta una predisposizione per vedere la cosa in maniera piacevole. Ok, esatto. Ti ringrazio Corrado, passiamo a Cristina, pronto? Pronto. Allora Cristina, raccontaci il tuo giro di vita. Allora, io posso dirti che ho fatto della mia passione la mia professione. Ormai sono 14 anni, io ho fatto lettere in cattolica, lavoro in casa editrice, sai, tutte quelle cose, proprio cursus honorum perfetto. E poi lavoro in cucina, lavoro in sala, sono diventata sommelier in brevissimo tempo, professionista velocissimamente, varie occasioni fino ad arrivare a un locale tutto nostro, cioè mio e dello chef meraviglioso con cui sono, solo 6 tavoli, una realtà fatata nel centro di Bergamo, e il mio lavoro è la cosa più bella che poteva capitare. Come sei stata accolta venendo dalla casa editrice, dal mondo dei libri? Ma sai, io ho cambiato tutto, nel senso che ho cambiato città, ho cambiato tante cose quando ho fatto il giro di vite. E sai, essendo così diversa, avendo un modo diverso di fare, perché questo è anche una parte del marketing, nel senso che tu porti, i clienti ti assomigliano alla fine, no? Perché tu ti posizioni in un settore di mercato che è quello dove puoi esprimerti meglio. E questa è una cosa che parte, che tanta gente, diciamo, ci dice quando fa il giro di vita, insomma, che uno porta anche diciamo, un pezzo della sua vita precedente. Io ringrazio Cristina, dobbiamo andare verso la chiusura. Prima sapete che però abbiamo una domanda per voi. Le grandi domande della seconda vita. Allora, questa settimana noi vi stiamo chiedendo, come grande domanda della seconda vita, qual è la cosa dalle quale volete scappare, cos'è che vi fa venire voglia di cambiare vita. Francesco ci ha scritto a giro di vita @radio24.it: sogno di poter vivere senza sentire il suono più brutto del mondo, che è quello della sveglia. Mentre Emanuela, sempre via mail, ci ha scritto che scapperà dalla vicina di casa che si lamenta perché faccio rumore di notte anche quando la notte non ci sono. Questo però è un problema un po' forse diciamo particolare. Va bene, io vado in chiusura, vi ricordo giro di vita @radio24.it, facebook.com/girodivita, e dovremo tornare su questo, diciamo, argomento della ristorazione, della passione per la cucina che diventa un lavoro, in una delle prossime puntate, credo. Intanto io appunto continuo a ringraziare, perché non lo faccio mai, tutti quelli che ci scrivono sulla pagina di Facebook, tipo Massimo, tipo Stefano, tipo Walter, tipo Dante, tanta gente che ci scrive, si parla anche tra di loro, fate così, continuate, dialogate con noi e tra di voi. Io ringrazio Fabrizio Intonti, ringrazio Valerio Rocchetti che si è occupato della parte tecnica, io sono Achille Corea, ritorniamo domani con un altro giro di vita. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.